Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 12. Solo quando una persona ha lavorato su se stesso, noi possiamo parlare dell'essere interiore. Perché? Perché nel superiore non c'è differenziazione. Qui vediamo un pezzo di sentimento. Ma finché una persona non guarda dentro, proprio come ha fatto il profeta, sto facendo solo quello che fa mio padre, non verrà in conformità, verrà nel mondo Asia, e questo è il mondo più rozzo. Solo quando una persona lavora su se stesso può venire in accordo con le qualità dell'alto e può salire al mondo Yetzirah e da lì al mondo Briya Atzilut. Nessuno può venire al mondo di Adam Kadmon. Vedi questo mondo come Ein Sof. Non possiamo sperimentarlo. Tutte queste forze, tutte queste differenziazioni sono dentro la luce. E questo è solo un mondo spirituale. Ma esse esistono nell'universo macro, ma anche dell'interno micro, non nel cuore. Nel cuore abbiamo il desiderio di come posso venire senza sforzo al massimo profitto. Questo è il desiderio del cuore. Non c'è bene nel nostro cuore. Le persone spesso parlano di bene, ma l'unico bene dentro una persona è all'interno dell'essere interno. Tutte le tentazioni di cui sto parlando sono con lo scopo che tu vieni in conformità agli attributi, perché questa è la via che conduce alla tua vita. Per portarti in conformità con la luce, con le leggi dell'universo, con le leggi del creatore. Così è. Come lavoreremo? Più ti avvicini all'Ein Sof, a tutti questi mondi. Essi sono il lato buono di una persona. Ma quando vai più lontano, peggio sarà. L'essere interiore è il lato di una persona in conformità al mondo più vicino. Ora puoi creare all'interno di te stesso il mondo interiore di Azilut. Dove puoi trovare la forza? Questa forza è nel magnifico punto. Il punto del mio cuore. Questo punto nel cuore è l'essenza, il bene in una persona, che è conforme con Ein Sof, con il perfetto mondo spirituale Atzilut. Poi abbiamo il nostro bene e male. Questo è il tema del nostro studio. I mondi Bria e Zira e Assia. E più andiamo verso l'esterno, più grezzo diventa. Forse i veri punti di forza sono nelle luci, e noi li stiamo costruendo dentro di noi, dentro l'essere interiore. Siamo le creature più rozze, e l'intenzione è di venire in conformità alla forza all'interno del punto del cuore. Questo è il nostro lavoro e il nostro obiettivo. Adam vuole sperimentare proprio come a noi ci piace sperimentare l'Ein Sof. Stiamo parlando solo di quattro mondi, sebbene ci sono cinque mondi. Il nostro mondo è il luogo del desiderio, che hanno a che fare con il mangiare, il bene, il sesso, eccetera. Come li sperimentiamo? Non sul fisico, ma sui desideri che noi sperimentiamo. La nostra consapevolezza è il nostro mondo. I desideri provengono dal nostro mondo. Iniziamo lo studio nell'area del bene e del male. All'interno del mondo spirituale vediamo i mondi creati dal Creatore. Ed è stato il Creatore stesso che aveva reso grossolano i mondi. Queste grossolanità sono lì, presenti per sempre. Perché? Così avremmo l'intenzione di portare noi stessi in conformità e raggiungere gli stessi attributi. Non c'è bene dentro di me e te, te e te. Ma quando porto il mio mondo interiore, il mio mondo di esperienze, lo porto conforme agli attributi del superiore, allora imparerò anche le qualità di questi attributi di ogni mondo. Quali sono i poteri all'interno di questi mondi? Quando sto imparando questo, allo stesso tempo sto creando l'essere interiore dei mondi Atzilut, Bria, Yetzirah. Sto creando i mondi dentro di me. Come creo? C'è una matrice. Un progetto. La luce che brilla dentro di me ha un potere enorme. Più è corta la lunghezza d'onda, e più è forte. Più profondo vado dentro di me, più corta è la lunghezza d'onda. E la radiazione diventerà più forte e più forte. E più forte risplendono e meglio li sentirò. Come abbiamo detto prima, le forze spirituali sono molto brevi, più corte di qualunque altra lunghezza d'onda scoperta dalla scienza. La scienza non raggiungerà mai questa breve lunghezza d'onda. Questo è dato solo a un essere umano. Ogni essere umano può raggiungere questa breve lunghezza d'onda lavorando su se stesso. Ecco perché il profeta aveva detto: farai molto più dei miracoli che io ho fatto. Cosa ha detto? Ha detto: ognuno di voi andrà più in profondità di se stesso, così profondo che raggiungerai questa breve lunghezza d'onda. Allora puoi spostare le montagne. Egli disse: ma qual è il problema? Il problema è il dubbio. E quando hai dei dubbi, non sai quello che vuoi. C'è una voglia per tutto. Tu vuoi questo e questo, ma ti manca il compromesso. Non c'è forza per arrendersi. A chi devi arrenderti? Solo al tuo vero essere interiore. Tutti i punti di forza sono dentro di te, proprio come l'Ein Sof. La Kabbalah dice soltanto: mettiti in conformità con le qualità. Questo è il modo di creare. Venendo in conformità alle qualità, vengo nella totalità. E la totalità è dentro di me, è il mio progetto. Quando parlo con la luce del Creatore, quando mi faccio trasparente, la luce farà un modello. Darò a lui la possibilità di penetrarmi. Questo è ciò che ognuno di noi deve fare, aprirsi in modo spirituale e rendersi ricettivi, rendendoti ricettivo, ti apri alla vera fonte della vita. Leggi attentamente, concentrati su te stesso. Prendi le parole che stai leggendo, renditi piccolo, trasparente. Questo è il modo per aprirti alla luce. In questo modo stai facendo una matrice, un modello, in modo che la luce possa e voglia fare un'impronta. Fatti come cera. È facile fare un'impronta su cera. Il significato della Kabbalah è ricevere. Questa è la ricezione. Questo è ciò che la Kabbalah ti insegna. Apri te stesso per la luce, per la sorgente, l'essenza, l'Ein Sof. La Kabbalah non parla di un ebreo, di un musulmano o di qualunque altra persona. Sto solo parlando di forze all'interno di ogni essere umano. Gli ebrei capirono questo, furono i primi a rendersi ricettivi alla luce, e questo è il vero significato della parola ebreo, ivri. È l'essere interiore nell'essere umano, e non l'ebreo di carne e sangue. Certamente gli ebrei hanno il talento per lo spirituale, ma quando trascurano il loro talento, la miseria sarà il risultato. Se solo l'1% dovesse imparare la Kabbalah, dagli ebrei, un sacco di miseria scomparirebbe, e non nel modo in cui recitano in quei giorni. Ogni di noi deve venire alla delusione più profonda. Ascolta quello che dico. Lo dico a ognuno di noi, cioè tutte le persone, e non solo agli ebrei. La Kabbalah è per ogni persona, e dobbiamo aiutarci a vicenda. Solo quando uno prova completamente, interamente, arriva alla profondità spirituale, allora l'uomo sarà liberato. Non tutti hanno la forza, non tutti si tengono impegnati con l'interiore. Non è importante. Ma devi sapere che devi lavorare più sodo, doppiamente duro. Per un ebreo questo è un obbligo. Ogni ebreo deve farlo perché quando un ebreo trascura il suo compito, nessuno riceverà la luce. Devi accettare questo. Non pensare che un ebreo sia superiore o inferiore, ma è il desiderio del Creatore. Nei suoi occhi l'uomo è nessun valore senza l'ebreo. La vera ricchezza è all'interno. Non si può comprare questo, e questa è la Kabbalah. La Kabbalah ti dà la ricchezza interiore. Nella prima parte ho parlato della purificazione spirituale, della nostra parte rozza, esterna. Proviamo ad andare dentro. Ma penetrare questo materiale duro e pesante è difficile e richiede molto tempo. È un processo lento. Ogni giorno avrai nuove esperienze. Sei tu che devi venire nella parte più sottile dentro te stesso. Raffinare il materiale duro. Devi penetrare te stesso. Questo è ciò che facciamo nella prima parte. Questo è il lavoro spirituale di ogni essere. Così ora puoi sperimentare questi tre mondi. Devi dare il massimo sforzo per andare più in alto. Solo quando stai più alto sperimenterai la verità. Nella seconda parte studieremo i mondi. Iniziamo con l'Ein Sof. Poi abbiamo il primo grossolano, il mondo di Adam Kadmon. Poi il mondo Atzilut, in cui sentiamo la nostra natura. Prima ogni cosa è molto sottile e perciò molto difficile. Noi studieremo i mondi Bria Yetzirah e Asiya. Il Creatore aveva creato tutti questi mondi e poi lui convisse con loro. Tutti i pezzi erano mescolati così, ora lui poteva creare Adam. Come lui ha fatto questo, lo impareremo più tardi. Tutto è conforme alla qualità. Impareremo la struttura, come sono fatti i mondi. Tutti questi mondi sono dentro me, dove nel magnifico buco dentro di me. Sei tu che stai andando a penetrare così ora, puoi venire all'esperienza. Questo buco all'interno di me splenderà, e tu hai fatto questo studiando le forze. Queste forze splenderanno su di te e all'interno di te. L'unica cosa che devi fare è renderti piccolo, fare quello specifico strato disponibile dentro di te, rendendoti disponibile così, ora queste forze possono entrare e questo ti porterà in conformità con gli attributi. Mediante questo apprendimento ti rendi pronto dall'interno. Sei tu stesso a renderti in conformità con le forze. Allora puoi iniziare a conoscerle e allo stesso tempo la luce farà un'impronta profonda dentro di noi. La luce ha un tale potere che ti penetra completamente. Più in profondità puoi andare, più ti avvicini al Ein Sof, più la luce verrà dentro di te. La correzione completa troverà posto solo quando l'arrivo del Messia è là. La correzione si prende sopra le sante scintille. Loro circonderanno il mondo terreno e poi a lungo non c'è più il prurito. Il serpente, il nostro mondo, questo è il serpente, non ti disturberà più. Perché siamo circondati da questo santo scintillio dell'essere interiore. Il serpente ci infastidisce e ogni persona sente questi disturbi. Non puoi fare niente al riguardo. Solo tenendoti occupato con il tuo interiore puoi sopportarlo. Ma devi lavorare su te stesso in un modo vero. Quando non c'è gioco, riceverai la forza. Riceverai quello che chiamiamo credo, al di là della comprensione. Questo è l'inizio. Devi sapere che il tuo intelletto ti sta adescando. Per esempio, ti dice tutte le cose carine. Perché farsi piccolo? Perché dovresti annullare te stesso, eccetera? Sto parlando della tua vita. Lascia che sia la tua vita. Non c'è altro modo, quindi, di venire alla delusione più profonda. Solo allora puoi andare dentro, poi inizi il lavoro. Non c'è altro modo per venire alla delusione più profonda. Solo allora puoi andare dentro, poi inizi il lavoro. È il tuo viaggio, il tuo percorso che conduce al tuo interiore, al tuo Ein Sof. Sei tu che devi essere consapevole quando hai la sensazione di essere severo, il potere della rabbia. Allora devi cercare di lavorare su te stesso per portarti a Chassadim, alla misericordia. Questo è il tuo lavoro. Con ogni sentimento di inganno, opprimente, rabbia, o anche quando pensi male su qualcun altro. Chiedi la forza di Binah appena hai questi pensieri. Che Binah possa aiutarti a ridurre i tuoi pensieri e desideri. Così ora puoi ricevere l'amore. Solo con l'amore puoi ridurre i tuoi desideri. E questo è il tuo lavoro. Devi farlo da solo. Sei tu che devi chiedere in ogni situazione la forza di aiutarti fino al giorno in cui muori. È tuo lavoro portare ogni desiderio all'interno. Tu eri e non sarai mai colpevole, non appena entrerai dentro. Non arrenderti, sei chi sei. È il tuo percorso, il percorso che conduce al tuo interiore, al tuo essere interiore. Ogni movimento deve essere portato dentro. Addolcisci i tuoi poteri di rabbia, inganno, eccetera. Così ora puoi sperimentare il supporto della luce. Quando diventi rabbia, sei come morto. Allora non c'è alcuna relazione con la luce. Apri te stesso per l'amore, per la fonte della vita. Lezione 12. C'è un principio molto importante. Ogni cosa che è semplice è geniale, reale e vero. Quando diventa complicato, sappi che la verità è camuffata. Ciò che è vero è semplice, facile. Continuiamo con il libro di purificazione interiore. Alla pagina 6 noi vediamo la struttura dell'essere interno. Guardiamo l'essere umano dall'alto in basso. Ma è anche possibile guardare dal basso verso l'alto? Il disegno a pagina 9 ci mostra la struttura dall'interno verso l'esterno. Ciò che è dentro è più elevato rispetto a quello esterno. Vediamo un cerchio interno che è più alto. Che cos'è più alto? Con più alto intendiamo più vicino al Creatore. Più vicino alla luce, più delicato. Più basso è vicino a Malchut, più in basso arriviamo al più duro e più lontano dal Creatore. Ogni cosa che è più dentro è più alto, più vicino all'obiettivo. Alla pagina 7 leggiamo: è detto, non c'è nessun altro accanto a lui. Nessuna altra forza. Questo è un principio che devi ricordare e tu avanzerai. Questo è qualcosa che deve essere nel tuo cuore. E quando hai salvo questo, sei a metà strada. Non c'è nessun altro accanto a lui. Puoi sapere tutto, ma quando ti manca la comprensione, questo principio, niente, può aiutarti. Questa frase appartiene a Yehuda Ashlam. Colui che sta lavorando su se stesso, colui che sta facendo il lavoro spirituale, ha la sensazione di cadere costantemente. Sente di non avere i punti di forza per questo lavoro. Noi leggiamo, e non è abbastanza che lui sta andando avanti nel suo lavoro. Lui si vede che sta andando indietro e non ha le forze per fare la Torah e le prescrizioni con l'intenzione per se stesso, specialmente quando uno comincia. Questo è un sentimento comune. Queste forze opposte stanno lottando dentro di te per rimanere in vita. In un certo modo stai portando via il terreno fertile d'ego, l'ego. Ma è una lotta finta. Quando vinci davvero, tu sei egoista, l'amore se ne andrà diminuito. E ora non c'è più alcun ostacolo per entrare in contatto con il tuo interiore. O in altre parole, tu vedrai sempre di più il tuo essere interno e ti manterrai sempre più occupato con l'interiore e non con l'esterno. Quando iniziamo, sembra che non ci siano progressi. Pensi che ci sia solo una discesa e nessuna progressione? E lui non vede la fine di questa situazione. Ma non avere un desiderio per la fine. Continua. Devi lavorare a rendere più forte la tua fede, oltre la tua comprensione. Questo deve crescere. Solo andando oltre la conoscenza diventa possibile. Ma questo è molto difficile. Dobbiamo avere fede. Solo allora c'è progressione. Siamo arrivati alla consapevolezza che solo il Creatore può aiutare. Questo è difficile da capire. Quello che vogliamo capire con il nostro intelletto è difficile. Perché? Vediamo le contraddizioni nascoste nello spirituale. e con il nostro intelletto non le comprendiamo. Il nostro intelletto è colui che dice è questo o quello. Solo quando arriviamo a un livello superiore possiamo unirli. Il bene e il male saranno tutti a un livello più alto. Prima uno sente la miseria e ha la sensazione di non poter fare niente. E questa sensazione diventa peggiore. Da dove viene questa sensazione? Dal creatore. È il creatore egli stesso che ti sta mandando questo. È solo per dire che è la tua opinione che pensi di andare giù. Ma tu devi sapere che è il creatore stesso. Tu devi sapere lui ti sta avvicinando all'obiettivo della creazione. Ogni persona deve venire alla sua più profonda delusione prima che possa alzarsi e vede solo il Creatore che può aiutarlo. Ogni persona necessariamente deve attraversare questo processo. Lo rende più forte. Solo allora può arrivare all'aspetto della fede. Al di là della comprensione, e questa è la vera forza. Quando uno vuole essere pieno di forza, fa ogni cosa per conto proprio. Guarda, ad esempio, il politico, eccetera. Il creatore non si rivelerà a loro, perché no? Sono già forti, non hanno bisogno di aiuto. Quindi, perché il Creatore dovrebbe interferire con loro? Il Creatore aiuta colui che è debole. In un certo senso devi essere debole, poroso. Quindi, il Creatore può aiutarti. A chi altro dovrebbe dare il Creatore? Solo a coloro che sono deboli. Solo loro egli può dare lo spirituale. Cosa intendo con deboli? Intendo deboli dall'interno. Per loro che possono rendersi piccoli, minuscoli. Debole significa essere se stessi come intermediari, rendersi trasparenti per lo spirituale, rendersi vuoti, ricevibili, ricettivi. Allora lo spirituale può e verrà a voi. Cosa stai imparando? Impari a diventare te stesso, dall'interno, piccolo, per l'unica forza creatrice, il Re. Solo di quei deboli ha bisogno il Re. Il Re dà a coloro che sono deboli lo stesso che vediamo nel nostro mondo materiale. Riceverai ogni cosa finché resterai fedele al Re. Perché la loro miseria? Perché ti stai sentendo forte? Ed è tutto riguardo a sentirsi debole dall'interno. E questo è possibile solo quando sei nel dolore. Questa è miseria. La vera miseria è quando tieni le mani al cielo, dal dentro, e senti che non c'è nessuno che possa aiutarti. Ovviamente ad altre persone sei ancora forte, ma non se vuoi stare di fronte al Creatore, allora il tuo potere deve essere sparito. Sentiti debole, è il tuo salvataggio. Debole dall'interno, quando smetti di combattere, quando non c'è più resistenza, deve accadere dall'interno. Tutto avviene dentro di te. Testo. E questo lo porterà al sentimento nel cuore che lui ha bisogno. Il Creatore aprirà i suoi occhi e il suo cuore, così ora può venire in verità al suo obiettivo, venire in unità con lui per sempre. Leggi ogni parola che molta con molta attenzione. Prima c'è l'accettazione del sentimento che tu devi renderti debole per lui. E questo deve venire da te, con tutto il tuo cuore e la tua anima. Deve essere consapevole di questo. Non dire sì, la faccio, senza il tuo cuore. Questo deve venire dal profondo. Devi sentire il potere dell'opposizione, non solo la semplice fede e pensare, oh sì, sarò salvato. Quando non c'è preparazione, quando non hai fatto nulla, non verrai alla vera fede, non riceverai la vera forza. Deve venire dal tuo cuore. Il desiderio devi sentirlo profondamente dentro di te. Solo allora il Creatore ti noterà. Chi può fare questo lavoro? Coloro che non sono ebrei, loro possono richiamare tutta la loro forza, non il popolo ebraico. Questo è già stato scritto nei libri sacri. Quindi cosa sta succedendo in quei giorni? È buono. È già scritto nei libri sacri, il popolo non ebreo riceverà le forze. Ma prima deve esserci la necessità e poi il Creatore aprirà i tuoi occhi e ti porta vicino al suo obiettivo. Qual è il tuo obiettivo? Venire in unità con lui per sempre? Cosa significa questa unità per sempre con il Creatore? Quindi non puoi peccare? Cos'è il peccato? Solo quando fai qualcosa che ti separa dal Creatore, tu pecchi, quando ti separi dalle fonti della vita. Quando hai la sensazione di essere solo, sei separato dalla fonte della vita. Ogni sensazione di solitudine significa che sei separato dal Creatore. Non pensare che quando ti tieni occupato con lo spirituale, i sentimenti di sgradevolezza scompariranno. Devi sapere questo. Quando ti senti solo o misero, tu hai già peccato. O in altre parole, sei solo perché sei senza di lui. Perché quando sei con lui, non c'è sentimento di solitudine o autocommiserazione. Vedi la differenza? Tieniti occupato con i mezzi spirituali, dirigendo la tua preghiera a lui, alla sola forza creatrice. Cos'è la preghiera? Quando preghi, hai un sentimento di unità, perché hai bisogno di quel sentimento. Così ora puoi venire a vivere nel momento. C'è un momento di fusione. Tu lo senti. Sperimenti la sola forza creatrice. In un certo senso siete sulla stessa lunghezza d'onda. Vi state fondendo insieme nella stessa lunghezza d'onda. E allora sarà scritto nel libro di vita. Cos'è il libro della vita? Non pensare che stiamo parlando di un libro come lo abbiamo nel mondo materiale. Sentendo la fusione, il momento dell'unità con l'unica forza creatrice, questo è il libro di vita. Allora ti senti vivo? Quando sei solo, sei andato lontano? Quando sei solo, sei andato lontano. Sei stato separato, allontanato. Ah, in questo noi già vediamo il peccato nel mondo. La separazione non è buona, considerando il Creatore. Quando hai la sensazione di separazione, tu sei andato pure lontano. Ricorda questo. Chiedi al Creatore aiuto in tempo. Testo. In questo arriverai al riconoscimento di tutte le separazioni che avevi sentito e venivano dal Creatore. Non perché non stavi bene o non avevi il desiderio per superare. Ma devi sapere che il vero aiuto è là solo per chi ha il desiderio, il vero desiderio di avvicinarsi a lui. Egli non sarà soddisfatto con poco. Egli vuole tutto e non è suo desiderio che tu rimanga come un bambino testardo. Quindi il Creatore ti aiuta così ora, non puoi dire che c'è così poco nella Torah e nelle prescrizioni e tutte le buone azioni che ho fatto, ma mi manca ancora qualcosa. Quando ti senti respinto, sappi che è il Creatore che sta lavorando con te. Non perché egli vuole prenderti in giro, ma per avvicinarti a lui. Nel profondo di noi deve esserci questo desiderio per essere vicino a lui. Allora egli ti starà vicino. Non ci verrà alcun aiuto dal alto quando non c'è stata prima la domanda, il desiderio dal basso. Ricorda questo. Porta questo nel tuo cuore. Più grande è il tuo desiderio, più grande è la fusione con il Creatore. Devi venire all'esperienza, ci deve essere l'incisione, e di volta in volta imparerai il momento esatto da gestire per gridare il suo nome in tempo. La tua preghiera deve essere al momento giusto.